benvenuti a tutti. Puntata numero 0 di NBA Week, nuova trasmissione all'interno del palinsesto radiofonico di Radio Big World. Io sono Julian, sono un appassionato di pallacanestro NBA dalla tenerissima età di 6 anni. Non sono, e lo premetto immediatamente, né Flavio Tranquillo né Federico Buffa, né son degno lontanamente di provare a scimmiottarli in questa avventura che sto iniziando. Sono un semplicissimo amatore appassionato da una vita che ha deciso di raccogliere la sfida di provare a raccontare la stagione in corso attraverso il podcasting e la radio. Non sono assolutamente esperto di questo media, è la prima volta che mi trovo di fronte a un microfono e di fronte a un programma di registrazione, tant'è che non avete idea di quante volte nella ultima ora ho premuto il tasto play del programma, poi l'ho stoppato, ho cancellato e sono ripartito. Vediamo se questa è quella buona. NBA Week è la mia idea di provare attraverso il podcasting a raccontare e a rendere fruibile a tutti, anche a chi non può o non vuole permettersi un abbonamento a Sky o all'NBA League Pass, la stagione della National Basketball Association. Il mio augurio, la mia idea è quella di poter portare avanti questa trasmissione con cadenza settimanale fino all'ultima partita di NBA Finals, quindi coprire tutto l'arco stagionale. L'obiettivo, o comunque la volontà, era quella di partire prima dell'opening night. Non è stato possibile proprio perché sono totalmente acerbo da un punto di vista radiofonico, c'è voluto un po' di tempo per imparare a usare un microfono, imparare a usare un programma, e come vedrete non ho ancora ben imparato. Vi chiedo un'altra cosa, perdonate il mio dialetto, io sono toscano, tante parole saranno pronunciate alla toscana, non proverò a modificarmi perché perderei di naturalezza, proverò a raccontare la stagione filtrata dai miei occhi, e quindi anche il mio dialetto, anche il mio modo di raccontarlo servirà per mettere un timbro sul fatto che questa è una trasmissione di opinione. E queste opinioni che io proverò a esporvi potranno essere discusse, mi auguro che saranno discusse, e se eventualmente ovviamente deciderete di seguirmi, e potrete farlo in due canali social che io ho appena aperto. Uno è ovviamente una fanpage di Facebook che si chiama Facebook/NBA Week, l'altro è un piccolo blog nella piattaforma Medium, che è medium.com/NBA Week. Nel blog proverò a tempo perso a scrivere piccolissimi articoli per aggiungere un qualcosa che mi renderò conto di non aver potuto sviscerare all'interno della trasmissione radiofonica stessa, anche perché comunque ci sono dei limiti temporali ovvi, superati i quali chiaramente la vostra attenzione calerebbe. Nel profilo Facebook, oltre che ovviamente mettere i link ai vari podcasting e al SoundCloud dove verranno caricate le varie trasmissioni, proverò anche a darvi dei piccoli spunti per poter verificare personalmente in maniera gratuita quello di cui vi parlerò, perché comunque esiste una cosa fantastica che si chiama YouTube. Attraverso YouTube esiste la possibilità, già la mattina dopo le partite, che ovviamente per una questione di fuso orario si giocano nella notte italiana, esistono canali appunto che possono permettere di vederle, di vedere delle selezioni, e io ovviamente metterò i link a tutto quello che tratterò qui, perché non si può chiaramente parlare o raccontare la pallacanestro senza l'ausilio delle immagini. Andiamo al concreto. In questa puntata numero 0 ovviamente mi limiterò a una piccolissima analisi in chiusura. La verità è che vorrei però spiegarvi esattamente quello che sarà NBA Week. La mia idea è quella di provare a raccontarvi la stagione attraverso quattro sezioni differenti settimanali che qui vado a presentarvi. La prima sezione è la prodezza della settimana. La prodezza della settimana significa, sia in positivo che in negativo, la prodezza di un singolo che all'interno della settimana NBA è degna di nota o degna di analisi. Può trattarsi di Russell Westbrook che fa 65 punti, può trattarsi di DeAndre Jordan che nel matinee domenicale fa uno 0 su 25 dalla lunetta. In positivo o in negativo si tratta di prodezza, quindi dipende un po' da come la intendiamo. La seconda sezione è lo squadrone della settimana. Stesso identico discorso, squadrone può essere ironicamente la squadra che non vince mai, può essere realmente la squadra che si fa, che ne so, i Cleveland Cavaliers che vanno in trasferta ovest e una settimana incontrano le prime quattro squadre dell'ovest e gli fanno a botto. può anche essere, e sarà anche molto più probabile, un piccolissimo focus settimanale su quelle che, a mio avviso, possano essere le squadre più interessanti da analizzare nella stagione in corso, anche alla luce del mercato che è avvenuto, il mercato estivo che è avvenuto nell'off season. Perché molte squadre quest'anno sono cambiate, c'è stato un mercato molto, molto interessante da questo punto di vista. La terza sezione invece è il partitone della settimana e sarà un'analisi o un piccolo racconto di quella che è la partita, a mio avviso, più interessante che io sarò riuscito a vedere durante la settimana conclusasi. Chiaramente è molto probabile che questa partita sia una delle partite nel palinsesto Sky, perché quest'anno per adesso non ho rinnovato l'NBA League Pass, che è quell'abbonamento attraverso l'NBA direttamente che ci permette di poter vedere tutte le partite potenzialmente dal proprio tablet, computer o anche smartphone. Non l'ho rinnovato, ho Sky e quindi chiaramente ho molta più possibilità di vedere le partite che Sky sceglierà di passare. Saranno partite che molto probabilmente, se deciderete di seguirmi, avrete visto anche voi, quindi mi auguro che le mie opinioni e le mie analisi al riguardo possono generare una discussione anche basata sulla vostra esperienza diretta, senza bisogno di ricorrere a link vari. Però, come stavo appunto dicendovi, se eventualmente dovessi trovare il modo di vedere in qualsiasi maniera qualche altra partita che magari non è stata passata nei palinsesti di Sky Sport, tutto sarà ovviamente riconducibile a YouTube, saranno linkati i video dove poter guardare la partita e dove poter eventualmente decidere se io ho detto una cazzata o meno, oppure se la mia opinione è a diritto di cittadinanza o se io sono un analista del cazzo, come si dice, insomma, come io almeno dico quando mi trovo ai bar, perché io non sono una persona educatissima, o comunque mi piace molto anche il torpiloquio. Magari capiterà di dire qualche parolaccia, spero non vi scandalizzerete. L'ultima sezione è quella che a mio avviso è la più interessante o la più divertente per me, perché comunque è una sezione molto editoriale. Si tratta della rimembranza della settimana. Rimembranza nel senso di ricordo e nel senso che tutti voi grandi fan dell'NBA capirete benissimo. Ogni grande fan dell'NBA infatti ha sempre avuto un occhio di riguardo rispetto ai grandi del passato, alle partite storiche del passato. La stessa NBA è molto ridondante nel raccontare o nel voler rimettere sotto i riflettori, attraverso i canali in cui si presenta, i giocatori storici o le partite storiche. Io, come dicevo all'inizio, sono un appassionato all'età di 6 anni, ho avuto la fortuna di seguire l'NBA e di vivermi tutti gli anni 90, che a mio avviso, non so prima, però a mio avviso da ad oggi sono l'epoca, il decennio più luminoso da un punto di vista appunto della National Basketball Association, per cui ho tantissimi ricordi, ci sono tantissime partite, ho tantissimi giocatori che ha senso rimembrare. Oltretutto tante partite le ho vissute in comunità in un modo o nell'altro, oppure le ho analizzate, seppur che ero piccolo, attraverso quelli che erano i canali del tempo, perché ovviamente non c'era Facebook, non c'era internet, però c'era ad esempio American Super Basket, che era un giornale spettacolare dal mio punto di vista, che io consideravo la mia Bibbia, al quale scrivevo letterine di continuo, ponendo quesiti anche tecnici, e grazie a American Super Basket mi sono veramente appassionato a questo sport, grazie anche alle tante risposte spesso scontate che mi hanno dato per scritto, scontate perché le mie domande erano sempre relative a quei due o tre giocatori che per me erano mitici, ad esempio Sean Kemp, che per me era il numero uno in assoluto e che poi è finito come è finito, povero Sean Kemp, però buono, ne parleremo, avremo modo di parlare anche di lui, mi auguro. Queste comunque sono le sezioni all'interno di ogni puntata settimanale che io vorrei utilizzare per raccontarvi la stagione in corso. Stagione in corso che, come saprete, è già iniziata. Io avrei voluto iniziare con questa trasmissione prima della opening night, non è stato possibile, però comunque alle 4:30 di notte mi sono alzato, alle 4, non mi ricordo che orario era, per vedere Golden State Warriors contro San Antonio Spurs. Chiaramente la stagione riprende da dove era finita, cioè da questo dualismo tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, due squadre che hanno iniziato la stagione in due modi totalmente diversi. I Golden State Warriors incredibilmente hanno tutta la pressione addosso, malgrado abbiano fatto una debacle pazzesca nella finale NBA dello scorso anno, perdendola dopo aver vinto praticamente tutto il vincibile nella stagione regolare che si era conclusa. Golden State ovviamente pressione addosso perché ha aggiunto nel suo roster uno dei giocatori più forti a disposizione, cioè Kevin Durant, e lo ha aggiunto a un roster dove c'erano già dei terminali offensivi di rilievo come Stephen Curry e come Klay Thompson. Come possono convivere Klay Thompson e Stephen Curry con Kevin Durant? Questa è la domanda. Come farà Steve Kerr, che è l'allenatore, a trovare un equilibrio per permettere a ognuno di tre di prendersi i suoi tiri e considerare anche il resto del roster, che comunque sarà attore protagonista e spesso decisivo, in quanto i comprimari spesso sono quelli che magari danno le mazzate importanti o determinano gli equilibri di una stagione, soprattutto quando si arriva ai playoff. La prima partita di Opening Night ha dimostrato subito che Golden State ha tanto cammino da fare per trovare una chimica e un equilibrio di squadra. Infatti San Antonio Spurs, con un Kawhi Leonard strepitoso, l'hanno piegato in casa. Roba tremenda, cioè pensare a Golden State che si perde l'Opening Night all'Oracle Arena, non ci avrei mai scommesso. Per la verità abbiamo superato le 10 partite per squadra. Golden State sembra, almeno da un punto di vista statistico, perché io non ho visto tutte le partite dei Golden State Warriors, però sembra aver trovato l'equilibrio di squadra e l'equilibrio delle tre star una con l'altra. Chiaramente il gioco di Golden State, il fatto che si tratta di tre terminali offensivi importantissimi, tutti e tre grandi tiratori, è molto determinato dalle percentuali di tiro che questi potranno avere. Una cosa che purtroppo, secondo me, potrebbe creare grossi problemi, perché sappiamo benissimo, si può essere fortissimi, ma è chiaro, esistono giornate in cui la palla proprio non entra. Una giornata dove contemporaneamente i Big Three non fanno canestro, nemmeno una vasca da bagno, è una giornata in cui Golden State è destinata a perdere. Quindi Golden State, a mio avviso, si deve augurare che queste giornate avvengano più probabilmente adesso che a giugno, quando dovranno giocarsi il titolo, presumibilmente di nuovo contro i Cleveland Cavs. Cleveland Cavs che invece, campione in carica, sono totalmente privi di pressione mediatica, giocano una pallacanestro di una serenità assoluta. Credo che abbiano, non ho controllato, ma il miglior record della Lega in questo momento, e non hanno cambiato assolutamente niente. L'anno scorso hanno avuto come carta vincente il fatto di cambiare coach a stagione in corso, prendere Tyronn Lue, che era un esordiente che evidentemente ha creato immediatamente, è riuscito a mettere insieme, a creare una chimica di squadra importante, perché Cleveland la finale dello scorso anno l'ha vinta veramente con il cuore di LeBron James, che aveva tutte le sue motivazioni per, dopo essere tornato a casa, di portare per la prima volta il titolo a Cleveland, e il cuore di Kyrie Irving, e tutti gli appassionati si ricorderanno di quel tiro decisivo a una manciata di secondi dalla fine della gara 7, quella tripla assurda che ha dato il titolo fondamentalmente ai Cleveland Cavaliers, appunto. Cleveland gioca tranquillamente, ho avuto modo di vederli domenica scorsa contro i Charlotte Hornets, partita tranquillissima, gestita da Tyronn Lue, inserendo in campo nell'ultimo quarto, oltre a LeBron, fondamentalmente quattro panchinari. La partita era pure punto a punto e è bastata una piccola fiammata di LeBron per risolvere l'avvantaggio dei Cleveland Cavaliers. Per adesso giocano in maniera molto serena. A est la situazione è un attimino più semplice apparentemente. Io vedo come le due squadre più interessanti come oppositrice eventuale Cleveland Cavaliers, i Chicago Bulls, che hanno cambiato tantissimo da un punto di vista di mercato, e un'altra squadra che ha cambiato tantissimo prendendosi due quinti del quintetto base dei Bulls dello scorso anno, e sono i New York Knicks. New York Knicks, una delle mie squadre preferite, non è partita benissimo, i Bulls sono partiti meglio. Credo che è una squadra che, se riuscirà a trovare la chimica giusta, se riuscirà a inserire perfettamente Joaquin Noah e Derrick Rose, che sono arrivati lo scorso anno, fondendoli in maniera perfetta con il leader della squadra, che è Carmelo Anthony, e soprattutto sfruttando la crescita esponenziale di questo assoluto fenomeno, il Kristaps Porzingis, lettone se non sbaglio, giocatore a mio avviso migliorato almeno in queste prime partite in una maniera pazzesca dopo la prima stagione dello scorso anno che aveva fatto dell'NBA, già molto molto molto interessante. Credo che i New York Knicks si vedranno dopo la sosta per lo Star Game, e credo che potrebbero essere tranquillamente una ottava, settima squadra dentro i playoff, che può dar fastidio in una serie a 7 partite a tutti, anche eventualmente a Cleveland Cavaliers. però prestissimo per fare anche o per abbozzare pronostici o per abbozzare teorie. Di carne e fuoco ce n'è tantissima, si macinano partite ogni notte, quindi c'è un sacco di cose da vedere. Io ho già parlato abbastanza per presentarvi NBA Week. Ci vedremo tra una settimana, anzi ci sentiremo tra una settimana, perché fortunatamente per voi non mi potete vedere, che non è che so proprio un bel vedere, questo ve lo posso testimoniare. Ci sentiremo quindi tra una settimana e inizieremo a entrare nel merito della stagione attraverso la struttura che vi ho presentato. Ringrazio Radio Big World per lo spazio, ringrazio voi per la pazienza e per la tolleranza verso un incapace radiofonico come me, e mi auguro comunque l'idea almeno sia di vostro gradimento e che questo vi spinga a seguire NBA Week, perché magari andiamo affinando un po' la cosa e magari tra 4, 5, 6, 7, 8 puntate si riesce anche a trovare un equilibrio professionale un minimo più dignitoso. Grazie ancora a tutti per l'ascolto, tra una settimana puntata numero 1 di NBA Week.